Viale Ceccarini, Riccione, più che una via è un'istituzione. Abiti lunghi con i gelati, sorrisi al dente avvelenati, nasi rifatti, plastiche varie, cani nuovissimi, buu buu, giaculatorie. Dicono i soldi, ma signora, ma mi faccia bel piacere, hai volto al ghosting la vetta, io con due stracci le faccio vedere lei là. Pettegolieri di professione, code di paglia, fate attenzione, ce n'è per tutti, le una corrida, sciotta chi tocca, è aperta la sfida. A Viale Ceccarini, Riccione, la virilità non è un'opinione, spargi la voce e basta parlarne, no? Fai le vacanze magari gratis, femmine maschi anche per ore, jeans attillati attorno a un motore, il più introverso alda una sgasata, ma poi a che moto, ma che cilindrata. Un romagnolo non è del giro, cipolla la prima che gli capita tiro, ostia le megre con una sciaraca, il romagnù in nezza di pateca. A Viale Ceccarini, Riccione, delle vanità e l'esposizione, vengono in barca, ma guardali laggiù, fino all'ingresso. Ma fortuna che c'è il polismano Caldis. Beh, ma dove siamo arrivati? Scherziamo? Piazzere sgorbati, siamo di passaggio, andiamo a Vulcano nel pomeriggio. Accetto. Le sviolinate, prenotazioni, ma lui duro, eh? E averlo saputo, siamo già in noto persone. Ultimi spiccioli della stagione, giocati in fretta con il fiatone. E il riccionese alla tudasca, vengo alla pari, vegna far Pasqua. Ja, ja, natürlich. Oi ben. Viale Ceccarini, Riccione, Transeuropa Express in stazione. Siate prudenti, birichini, telefonate, ma all'ora giusta, non vi sbagliate, a Marmont. Viale Ceccarini, Riccione, oppure al fermo posto. Va bene lo stesso. Se senti la voce di lui, devi dire: ho sbagliato. Per esempio, fai il 38, 25, 34. Pronto, parla con Casa Sgorbì. No, Casa Squip, Spazzbì. Deve essere la Stip. Signora, ah, signora, quest'anno mo a volere volare ce la siamo passata. Va là, andiamo in spasso al Valle Chiari che ci si va a capiedi. Poi la capirà. Andare a Vilalta e volla la macchina di Monti Baiuc. E non mi invitavano mica tante volte, sa. Non sono mica più una bambina. Come dice, 28 anni, se è la con. È che quando si è simpatici te li tolgono facilmente. Il Savioli. E l'ha detto al Savioli. Signora, al Savioli nel 52 ho vinto due o tre bambole. Do tra i putculorzi, gli strei che le tengo ancora su armuano sul puff. Il maestro di ballo mi manda sempre gli auguri per Natale. Cosa vuol mai, signora? Adesso bisogna rassegnarsi. Le pchette intervici. Mariccione non è mica più quella, sa. È diventato un'altra, le una berba. Sempre le stesse facce. Oddio, le anche 25 anni che ci vengo. Sì, sono già 25 anni. Ci venivo fin da bambini in colonia. Questa è la mia fotografia. Oddio, ma stiamo... Oddio, signora, ma siamo già a Imola. Signora, così scherzando e parlando, ma come vanno forti i treni? Oddio, oddio, a me. Ciappa il valise, ciappa il valise. Prendi le valigie. Signora, ci vediamo l'anno prossimo a Riccione. Da quel bagnino che ha tutti quei figli. pensione sorriso. Arrivederla, signore, arrivederla.